ad alta voce. Alvar Orbacher legge Agostino di Alberto Moravia. La barca stava appoggiata sopra due rulli di abete grezzo, un po' dentro la spiaggia. Il Saro, buttate le vele dentro la barca, pareva spazientito. «Ma che fa?» domandò ad Agostino indicando il negro. «Ora viene!» disse Agostino. Il negro infatti accorreva, l'albero sotto il braccio, spiccando dei gran salti sulla sabbia. Il Saro prese l'albero con le sei dita della mano destra e poi con le sei della sinistra, lo sollevò e lo piantò in un foro del sedile di mezzo. Quindi salì nella barca, legò la cima della vela, fece scorrere la corda. La vela salì fino in vetta all'albero. Il Saro si voltò verso il negro e disse: «Ora diamoci sotto!» Il Saro si mise di fianco alla barca afferrando i bordi della prua. Il negro si preparò a spingere a poppa. Agostino, che non sapeva che fare, guardava. La barca era di media grandezza, metà bianca e metà verde. Sulla prua, a lettere nere, si leggeva Amelia. «Aissa!» disse il Saro. La barca scivolò sui rulli avanzando sulla sabbia. Il negro, appena il rullo posteriore si trovò fuori dalla chiglia, si chinò, lo prese in braccio, lo strinse contro il petto come un bambino e, saltellando sulla sabbia come per un balletto di nuovo genere, corse a sottoporlo a prua. Ripeté il Saro. La barca scivolò di nuovo un bel tratto. Di nuovo corse il negro da poppa a prua saltabeccando e caprioleggiando con il rullo tra le braccia. Ci fu una nuova spinta finale, quindi la barca discese nell'acqua con la prua in basso e galleggiò. Il Saro salì nella barca e prese ad infilare i remi negli scalmi. Pur infilando i remi, il Saro accennò ad Agostino di salire, con una specie di complicità che pareva escludere il negro. Agostino entrò nell'acqua fino al ginocchio e fece per montare. Non ci sarebbe riuscito se, ad un tratto, le sei dita della mano destra del Saro non l'avessero afferrato saldamente per il braccio, tirandolo su come un gatto. Egli guardò su. Il Saro, pur sollevandolo, non guardava, ma badava a raddrizzare il remo con la mano sinistra. Pieno di ripugnanza per quelle dita, Agostino andò a sedersi a poppa. «Bravo!» disse il Saro. «Siediti lì. Ora si porta la barca di fuori». «Aspettatemi, venga anch'io!» gridò il negro dalla riva. Trafelato si gettò in acqua, si fece presso la barca e ne afferrò i bordi. Ma il Saro disse: «No, tu non vieni!» «Come farò?» gridò quello addolorato. «Come farò?» «Prenderai il tram!» rispose il Saro remando di lena in piedi. «Vedrai che arrivi prima di noi!» «Perché, Saro?» insistette ancora il negro lamentosamente, correndo nell'acqua accanto alla barca. «Perché, Saro? Venga anch'io!» Il Saro, senza dir parola, lasciò i remi. Si chinò e mise una mano larga, enorme, sulla faccia del negro. «Ti ho detto che non verrai!» ripeté calmo, e con una sola spinta rovesciò il negro indietro, nell'acqua. «Perché, Saro?» continuava a gridare il negro. «Perché, Saro?» E la sua voce lamentosa, tra gli schizzi dell'acqua, suonava sgradevolmente all'orecchio di Agostino, ispirandogli una torbida pietà. Egli guardò il Saro che sorrise e disse: «È così noioso, che ce ne facevamo?» Ora la barca si era allontanata da riva. Agostino si voltò e vide il negro uscire dall'acqua agitando il pugno, con un gesto di minaccia che gli parve rivolto contro di lui. Il Saro, senza dir parola, ritirò i remi e li distese in fondo alla barca. Quindi andò a prua e legò la vela all'albero distendendola. La vela sventolò un momento indecisa, come se il vento la percotesse da ambo le parti. Quindi, tutto ad un tratto, con uno schiocco forte, piegò a sinistra, tendendosi e gonfiandosi. Ubbidiente, la barca piegò anch'essa sul fianco sinistro e cominciò a filare sulle onde leggere e scherzose del maestrale. «Ecco fatto», disse il Saro. «Ora possiamo distenderci e riposare un poco». Egli si calò in fondo alla barca e invitò Agostino a stendersi accanto a lui. «Se ci stendiamo sul fondo», spiegò come giustificandosi, «la barca corre di più». Agostino ubbidì e si trovò seduto sul fondo della barca, a fianco del Saro. La barca correva agilmente, nonostante la sua sagoma panciuta, inclinata sul fianco, andando su e giù sulle piccole onde e ogni tanto impennandosi come un puledro che morde il freno. Il Saro stava disteso con la testa appoggiata al sedile e un braccio girato dietro la nuca di Agostino a regolare la barra del timone e per un pezzo non disse nulla. «Vai a scuola?» domandò finalmente. Agostino lo guardò. Quasi supino, il Saro pareva esporre con voluttà quel suo naso dalle narici scoperte e infiammate al vento marino, come con desiderio di rinfrescarlo. Aveva la bocca semiaperta sotto i baffi, gli occhi socchiusi. Per il camiciotto sbottonato si vedeva il pelo arruffarsi sul petto, grigio e sporco. «Sì», disse Agostino con un fremito di improvvisa paura. «Che classe fai?» «La terza ginnasiale». «Dammi la mano», disse il Saro. E prima che Agostino potesse rifiutarsi, gli afferrò la mano nella sua. Ad Agostino parve di sentirsela serrare non in una mano, ma in una tagliola. Le sei dita corte e tozze gli ricoprivano la mano, ne facevano il giro e si congiungevano di sotto. «E cosa ti insegnano?» continuò il Saro, sdraiandosi meglio e come sommergendosi in una specie di beatitudine. «Latino, italiano, geografia, storia», balbettò Agostino. «Ti insegnano le poesie, le belle poesie?» domandò il Saro con una voce dolce. «Sì», disse Agostino, «anche le poesie». «Dimmene una». La barca si impennò e il Saro, senza muoversi né modificare il suo atteggiamento di beatitudine, diede un colpo al timone. «Ma... non so», disse Agostino impacciato e spaurito. «Mi insegnano tante poesie. Carducci». «Ah, sì, Carducci», ripeté il Saro meccanicamente. «Dimmi una poesia di Carducci». «Le fonti del Clitunno», propose Agostino esterefatto da quella mano che non lasciava la presa e cercando pian piano di svincolarla. «Sì, le fonti del Clitunno», disse il Saro con voce di sogno. «Ancor dal monte che di foschi ondeggia, frassini al vento mormoranti e lunge», incominciò Agostino con voce malsicura. La barca filava. Il Saro, sempre sdraiato, il naso al vento, gli occhi chiusi, prese a far decenni col capo come scandendo i versi. Attaccandosi ad un tratto alla poesia, come al solo mezzo per sottrarsi ad una conversazione che intuiva compromettente e pericolosa, Agostino continuò a recitare lentamente e chiaramente. Intanto cercava di svincolare la mano dalle sei dita che la stringevano, ma le dita erano più salde che mai. Agostino vedeva con terrore avvicinarsi la fine della poesia e tutto ad un tratto attaccò all'ultima strofa delle fonti del Clitunno il primo verso di «Davanti a San Guido». Era anche una prova, se ce n'era bisogno, per confermarsi che al Saro non importava nulla della poesia e che altri erano i suoi scopi. Quali poi fossero, non gli riusciva di capire. L'esperimento riuscì. I cipressi che a Bolgheri, alti e schietti, suonò improvvisamente senza che il Saro mostrasse di accorgersi del cambiamento. Allora Agostino interruppe di recitare e disse con voce esasperata: «Mi lasci, la prego!» cercando insieme di svincolarsi. Il Saro trasalì e senza lasciarlo aprì gli occhi, si voltò e lo guardò. Doveva esserci nel viso di Agostino una tale forsennata ripugnanza, un terrore così poco dissimulato, che il Saro parve capire improvvisamente che il suo piano era fallito. Lentamente, un dito dopo l'altro, liberò la mano indolenzita di Agostino e poi disse con voce bassa, come parlando a se stesso: «Di che hai paura? Ora ti porto a riva». pesantemente si tirò su e diede un colpo alla barra. La barca voltò la prua verso la riva. Senza dir parola, fregandosi la mano indolenzita, Agostino si levò dal fondo della barca e andò a sedersi a prua. La barca adesso non era troppo lontana dalla riva. Si vedeva tutta la spiaggia, di bianca, deserta sabbia battuta dal sole, larghissima in quel punto. Dietro la spiaggia la pineta si affoltiva, inclinata e livida. Rio era una fenditura svasata in quell'arena alta. Più a monte i canneti facevano una macchia verdazzurra, ma prima di Rio Agostino notò sulla spiaggia un gruppo di persone riunite. Dal gruppo saliva verso il cielo un filo di fumo nero. Egli si voltò verso il Saro, che seduto a poppa regolava con una mano il timone, e domandò: «Sbarchiamo qui?» «Sì, quella è Rio», rispose il Saro con indifferenza. Come la barca venne sempre più avvicinandosi a riva, Agostino vide il gruppo che circondava il fuoco sparpagliarsi ad un tratto correndo verso la sponda, e comprese che erano i ragazzi. Li vide che agitavano le mani, senza dubbio gridavano, ma il vento si portava via le voci. «Sono loro?» domandò trepidante. «Sì, sono loro», disse il Saro. La barca si andava sempre più accostando e Agostino poté distinguere chiaramente i ragazzi. Nessuno mancava. C'erano il Tortim, Berto, Sandro e tutti gli altri. E c'era anche, ma questa scoperta non sapeva neppur lui perché gli riuscì sgradevole, il negro Holmes che, come gli altri, saltava e gridava lungo la riva. La barca filò dritta verso la sponda, quindi il Saro diede un colpo al timone mettendola di traverso, e gettatosi sulla vela l'abbracciò, la ridusse e la calò. La barca si dondolò immobile nell'acqua bassa. Il Saro prese dal fondo della barca un ancorotto e lo lanciò in mare. «Si scende!» disse. Scavalcò il bordo della barca e, camminando nell'acqua, andò incontro ai ragazzi che lo aspettavano a riva. Agostino vide i ragazzi affollarglisi intorno, con una specie di applauso che il Saro accolse scuotendo il capo. Altro applauso, più clamoroso, salutò anche il suo arrivo, e per un momento si illuse che fosse di amichevole cordialità. Ma subito si accorse che si sbagliava. Tutti ridevano, tra sarcastici e sprezzanti. Berto gridò: «E bravo il nostro Pisa, a cui piacciono le gite in barca!» Il Tortima gli fece un versaccio accostando la mano alla bocca. Gli altri facevano eco. Persino Sandro, di solito così riservato, gli parve che lo guardasse con disprezzo. Quanto al negro, badava a saltellare intorno al Saro che camminava avanti a tutti incontro al fuoco che i ragazzi avevano acceso sulla spiaggia. Stupito, vagamente allarmato, Agostino andò con gli altri a sedersi intorno al fuoco. I ragazzi avevano fatto con la sabbia compressa e bagnata una specie di rozzo cunicolo. Dentro vi bruciavano pigne secche, aghi di pino e sterpaglia. Collocate di traverso sulla bocca del cunicolo, una decina di pannocchie di gran turco arrostivano lentamente. Presso il fuoco si vedeva, sopra un giornale, molta frutta e un grosso cocomero. «E bravo il nostro Pisa!» riprese Berto come si furono seduti. «Tu e Holmes ormai siete compagni, avvicinatevi l'un l'altro, siete, come dire, fratelli. Lui è moro, tu sei bianco, ma la differenza è poca. A tutte e due vi piace andare in barca». Il negro ridacchiava, soddisfatto. Il Saro, accovacciato, badava a rigirare le pannocchie sul fuoco. Gli altri sghignazzavano. Berto spinse la derisione fino a dare uno spintone ad Agostino, buttandolo contro il negro, in modo che per un momento essi furono addossati l'uno all'altro, l'uno ridacchiante nella sua bassezza e come lusingato, l'altro incomprensivo e pieno di ripugnanza. «Ma io non vi capisco», disse ad un tratto Agostino. «Sono andati in barca, che male c'è?» «Ah, che male c'è! È andati in barca, che male c'è!» ripeterono molte voci ironiche. Alcuni si tenevano la pancia dal gran ridere. «Eh già, che male c'è?» ripeté Berto rifacendogli il verso. «Non c'è nessun male, anzi, Holmes pensa che sia proprio un bene. Non è vero, Holmes?» Il negro assentì, giubilante. Ora D'Agostino cominciava ad albeggiare, seppur in maniera confusa, la verità, che non poteva fare a meno di stabilire un nesso tra quelle beffe e lo strano contegno del Saro durante la gita. «Non so che cosa volete dire», dichiarò. «Io in questa gita in barca non ho fatto nulla di male. Saro mi ha fatto recitare delle poesie. Ecco tutto». «Ah, le poesie!» si sentì gridare d'ogni parte. «Non è vero, Saro, che ho detto la verità?» gridò Agostino rosso in viso. Il Saro non disse né sì né no. Contentandosi di sorridere e sogguardandolo, si sarebbe detto, con curiosità. I ragazzi scambiarono questo contegno, in apparenza indifferente e in realtà traditore e vanitoso, per una smentita d'Agostino. «Si capisce!» si udiva ripetere da molte voci. «Va a chiedere all'oste se il vino è buono, non è vero, Saro? Bella questa! Ah, Pisa, Pisa!» Il negro, soprattutto, vendicativo, pareva godersela. Agostino gli si rivoltò e gli domandò bruscamente, tremando per la collera: «Che hai da ridere?» «Io nulla», disse quello scostandosi. «E non vi litigate! Saro penserà lui a mettervi d'accordo», disse Berto. Ma già i ragazzi, come se la cosa a cui alludevano fosse pacifica e non meritasse più neppure d'essere discussa, parlavano d'altro. Raccontavano come si fossero insinuati in un campo e vi avessero rubato il gran turco e la frutta, come avessero veduto il contadino venirgli incontro, furioso, armato di fucile, come fossero scappati e il contadino avesse sparato una fucilata di sale senza tuttavia colpire nessuno. Le pannocchie intanto erano pronte, rosolate e abbrustolite sul fuoco quasi spento. Il Saro le tolse dal fornello e con il solito paterno compiacimento le distribuì a ciascuno. Agostino approfittò di un momento in cui tutti erano intenti a mangiare e con una capriola si fece presso Sandro, che un po' in disparte sgranocchiava il suo gran turco. «Io non capisco», incominciò. L'altro gli lanciò uno sguardo di intelligenza e Agostino comprese che non aveva bisogno di dire altro. «È venuto il moro in tramvai», pronunziò Sandro lentamente, «e ha detto che tu e il Saro siete andati in barca. Ebbene, che male c'è?» «Io non c'entro», rispose Sandro con gli occhi rivolti a terra. «Sono affari vostri, di te e del moro, ma il Saro...» Egli non finì la frase e guardò Agostino. «E allora?» «Beh, io col Saro solo non ci andrei in barca». «Ma perché?» Sandro si guardò intorno e poi, abbassando la voce, diede ad Agostino la spiegazione che questi presentiva senza rendersene conto. «Ah!» fece Agostino, e senza potere dire di più, tornò al gruppo. Accovacciato in mezzo ai ragazzi, con quella sua testa bonaria e fredda reclinata verso la spalla, il Saro pareva proprio un buon papà tra i suoi figlioli. Ma Agostino ora non poteva guardarlo senza un odio fondo, più forte ancora di quello che provava contro il negro. Ciò che soprattutto gli rendeva odioso il Saro era quella reticenza di fronte alle sue proteste, come a lasciare intendere che le cose di cui lo accusavano i ragazzi erano realmente avvenute. D'altra parte non poteva fare a meno di avvertire, adesso, quasi una distanza di disprezzo e di derisione tra lui e i compagni. Quella stessa distanza che, ora se ne accorgeva, essi mettevano tra loro e il negro. Soltanto che il negro, invece di esserne, come lui, umiliato e offeso, pareva in qualche modo goderne. Più di una volta tentò di attaccare discorso sull'argomento che gli bruciava, ma sempre incontrò sia la canzonatura sia una noncuranza ingiuriosa. Del resto, sebbene la spiegazione di Sandro fosse stata chiarissima, egli non riusciva ancora a comprendere perfettamente quanto era accaduto. Tutto era oscuro in lui e intorno a lui. Come se invece della spiaggia, del cielo e del mare risplendenti di sole, non vi fossero state che tenebre, nebbia e forme indistinte e minacciose. I ragazzi, intanto, avevano finito di divorare i grani arrostiti delle pannocchie e buttavano via i torsoli nella sabbia. Si va a fare il bagno al rio? Propose qualcuno e subito la proposta fu accettata. Anche il Saro, che doveva poi riportarli tutti in barca allo stabilimento Vespucci, si levò e venne con loro. Camminando sulla sabbia, Sandro si staccò dal gruppo e venne accanto ad Agostino. «Sei offeso col Moro?» gli disse sottovoce. «E tu fagli paura!» «In che modo?» domandò Agostino avvilito. «Picchialo!» «È più forte di me!» disse Agostino, che ricordava la contesa del braccio di ferro. «Ma se tu mi aiuti...» «Come vuoi che t'aiuti? Sono cose vostre, tra te e il Moro!» Sandro disse queste parole con tono particolare, come a lasciare intendere che non pensava diversamente dagli altri sui motivi dell'odio di Agostino contro il negro. Agostino si sentì trafiggere il cuore da un'amarezza profonda. Così anche Sandro partecipava e credeva alla calunnia, il solo che gli avesse sinora mostrato un po' d'amicizia. Dato questo consiglio, Sandro, come se avesse temuto di stargli troppo accanto, lasciò Agostino e raggiunse gli altri. Dalla spiaggia erano passati nella boscaglia bassa dei pini giovani. Poi varcarono un sentiero sabbioso ed entrarono nel canneto. Le canne erano folte. Molte portavano in cima bianchi pennacchi. I ragazzi apparivano e scomparivano tra quelle lunghe e verdi lance, sdrucciolando sulla melletta e smuovendo le canne con un fruscio arido delle rigide foglie fibrose. Trovarono alla fine un punto dove il canneto si allargava intorno a un po' di proda melmosa. Come apparvero, grossi ranocchi saltarono d'ogni parte dentro l'acqua compatta e vitrea. E qui, l'uno contro l'altro, sotto gli occhi del Saro, che seduto a ridosso delle canne sopra un sasso, pareva assorto a fumare, ma in realtà li spiava tra le palpebre socchiuse, presero a spogliarsi. Agostino si vergognava. Ma timoroso di nuove beffe, cominciò anche lui a slacciarsi i pantaloni, procurando di mettervi molta lentezza e sogguardando gli altri. I ragazzi invece parevano gioiosi di mettersi nudi e si strappavano i panni urtandosi e interpellandosi scherzosamente. Erano, contro lo sfondo delle canne verdi, in parte bruni e in parte bianchi, di una bianchezza squallida e villosa, dall'inguine fino alla pancia. E questa bianchezza rivelava nei loro corpi quel non so che distorto, disgraziato e di eccessivamente muscoloso, che è proprio della gente che fatica manualmente. Soltanto Sandro, biondo all'inguine come in capo, grazioso e proporzionato, forse anche perché aveva la pelle ugualmente abbronzata per tutto il corpo, non pareva neppure nudo. O, perlomeno, non nudo in quella laida maniera da piscina popolare. I ragazzi, preparandosi a tuffarsi, facevano 100 lazzi osceni, scosciandosi, dandosi delle spinte, toccandosi, con un'impudenza e una sfrenata promiscuità che stupiva Agostino, affatto nuovo a questo genere di cose. Era anche lui nudo, i piedi nudi e lordi di melletta fredda, ma volentieri si sarebbe nascosto tra quelle canne, non fosse altro che per sfuggire agli sguardi che il Saro, accovacciato e immobile, in tutto simile ad un enorme batrace abitatore del canneto, avventava su di lui tra gli occhi socchiusi. Soltanto, come il solito, la sua ripugnanza non era più forte della torbida attrattiva che lo legava alla banda. E, mescolata con essa indissolubilmente, non gli permetteva di capire quanto piacere si nascondesse in realtà in fondo a quel ribrezzo. I ragazzi si confrontavano a vicenda, vantando la loro virilità e la loro prestanza. Il Tortima, che era il più vanitoso e al tempo stesso così nerboruto e sbilanciato, il più plebeo e squallido di tutti, si esaltò al punto da gridare ad Agostino. «E se io mi presentassi un bel mattino a tua madre, così, nudo?» «Lei che direbbe? Ci verrebbe con me?» «No», disse Agostino. «E io invece dico che ci verrebbe subito», disse il Tortima. «Mi darebbe un'occhiata, tanto per valutarmi, e poi direbbe, su Tortima, andiamo!» Tanta goffaggine fece ridere tutti, e al grido di «su Tortima, andiamo!» si slanciarono l'uno dopo l'altro nel fiume, buttandosi a capofitto, proprio come quei ranocchi che il loro arrivo poco prima aveva disturbato. La proda era circondata ad ogni parte dalle alte canne, in modo che si vedeva non più che un tratto del fiume. Ma come furono nel mezzo della corrente, apparve loro il fiumicello intero che, con un moto insensibile della compatta e scura acqua di canale, andava a sfociare poco più in giù, tra i sabbioni. A monte, il fiume si inoltrava tra due file di bassi e gonfi cespugli argentei che spandevano sull'acqua specchiante certe loro vaghe ombre, fino ad un piccolo ponte di ferro dietro il quale le canne e i pioppi, folti e premuti gli uni contro gli altri, chiudevano il paesaggio. Una casa rossa, mezzo nascosta tra gli alberi, pareva sorvegliare questo ponte. Per un momento Agostino, nuotando in quell'acqua fredda e possente che pareva voler portar via le gambe, si sentì felice e dimenticò ogni cruccio e ogni torto. I ragazzi nuotavano in ogni direzione, sporgendo il capo e le braccia sulla verde e liscia superficie. Le loro voci risuonavano chiare nell'aria ferma e senza vento. Attraverso la trasparenza di vetro dell'acqua, i loro corpi parevano bianche propaggini di piante che, affiorando dal fondo cupo, si muovessero di qua e di là secondo gli strappi della corrente. Egli si avvicinò a Berto, che nuotava non lontano, e gli domandò: «Ci sono molti pesci in questo fiume?» Berto lo guardò e disse: «E ci fai qui? Perché non tiene compagnia al Saro?» «Mi piace nuotare», rispose Agostino addolorato, girando e allontanandosi. Ma era meno forte ed esperto degli altri, e stancatosi ben presto, si lasciò andare secondo la corrente verso la foce. Presto i ragazzi, con le loro grida e i loro schiamazzi, gli furono alle spalle. I canneti si diradarono, l'acqua si fece limpida e incolore, scoprendo il fondo sabbioso, tutto percorso da fluttuanti increspature grigie. Finalmente, passata una pozza più profonda, specie di occhio verde della corrente diafana, egli mise i piedi nella sabbia e, lottando contro la forza dell'acqua, uscì sulla proda. Il fiumicello confluiva nel mare arricciandosi e formando come una groppa d'acqua. Perdendo la sua compattezza, la corrente si allargava a ventaglio, si assottigliava, non più che un velo liquido sui sabbioni lisci. Il mare risaliva il fiume con leggere onde urlate di spuma. Pozze dimenticate dalla corrente riflettevano qua e là il cielo brillante nella sabbia intatta e gonfia d'acqua. Tutto nudo, Agostino passeggiò per un poco su quelle sabbie tenere e specchianti, godendo a imprimervi con forza i piedi e a vedere l'acqua subito fiorire e allargare l'orme. Ora provava un vago, disperato desiderio di varcare il fiume e allontanarsi lungo il litorale, lasciando alle sue spalle i ragazzi, il Saro, la madre e tutta la vecchia vita. Chissà che forse, camminando sempre dritto davanti a sé, lungo il mare, sull'arena bianca e soffice, non sarebbe arrivato in un paese dove tutte quelle brutte cose non esistevano. In un paese dove sarebbe stato accolto come voleva il cuore, e dove gli sarebbe stato possibile dimenticare tutto quanto aveva appreso, per poi riapprenderlo senza vergogna né offesa, nella maniera dolce e naturale che pur doveva esserci e che oscuramente presentiva. Guardava la caligine che sull'orizzonte avvolgeva i termini del mare, della spiaggia e della boscaglia, e si sentiva attratto da quella immensità come dalla sola cosa che avrebbe potuto liberarlo dalla presente servitù. Le grida dei ragazzi, che si avviavano attraverso la spiaggia verso la barca, lo destarono da queste dolenti fantasie. Uno di loro agitava i suoi vestiti. Berto gridava: «Pisa, si parte!» Si scosse e, camminando lungo il mare, raggiunse la banda.